22. Una luce grigia filtrava dalle tende. La camera era quieta, in penombra. Nancy chiuse la porta alle spalle con delicatezza. Amava veder dormire le bambine. I piccoli corpi erano divisi in due letti. La più grande da sola, sotto le coperte. Si intuiva il ritmo del respiro. Nancy sorrise. Attraversò la stanza fino alla finestra. Scostò le tende. Le bambine si mossero. «Sveglia! È ora di lavarsi e di fare colazione!» Le piccole si misero a sedere, sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. Tutte tranne una. «Esther, sveglia! Non sarai proprio tu a dare il cattivo esempio!» Nancy si accorse che il letto della maggiore era vuoto. «Dov'è Esther, bambine?» La voce tradiva preoccupazione. Le bambine non risposero. Si limitarono a guardare Nancy con gli occhi assonnati. «Esther, dove sei? Dove ti sei cacciata?» La donna si accostò al letto, levò le coperte. Sul lenzuolo si allargava una macchia di sangue. Aveva dormito in un recinto di pecore dopo aver chiesto il permesso al pastore. L'uomo era stato cordiale. Lo aveva perfino invitato nella sua catapecchia, ma Philip aveva preferito stare all'aperto, sotto le stelle, appena visibili in quella nottata britannica. L'uomo si era fidato. Anche le pecore e i cani avevano accettato il nuovo venuto. Si era spinto abbastanza lontano e alle prime luci si sarebbe dovuto alzare per essere all'appuntamento. Era stato un sonno agitato. Gli ronzavano nella testa dei versi in latino. «Pulvis sed in pulverem revertis». Aveva sognato di alzarsi e uscire dall'ovile, seguendo un'ombra familiare. Era lo spettro di sua moglie, sorridente. Gli sfiorava i capelli come un alito di vento e lo conduceva in mezzo al campo, dove c'erano due casse da interrare, una molto piccola. Nel petto il cuore era pesante, come gravato da una pietra. «Tua figlia», aveva sussurrato il fantasma. «Tua figlia». Philip aveva guardato nella cassa più piccola. Sul fondo c'era solo un oggetto, il bottone di un uniforme da tamburino legato a una ciocca di capelli biondi. Aveva provato a interrogare il fantasma, ma i suoi tratti erano mutati alla luce della luna. Un volto ovale, dalla pelle ancora liscia, la bocca sottile e la lunga treccia nera, con alcuni fini bianchi ben visibili. Philip l'aveva riconosciuta, per metà donna e per metà ragazza. Molly lo aveva guardato severa, poi aveva indicato la luna rossa come il sole al tramonto. «La luna sanguina! Un animale è stato ferito!» Aveva aperto le palpebre di colpo, come se fino a quel momento avesse finto di dormire. Un chiarore a est annunciava l'alba. Ora camminava di buon passo sulla via del ritorno. Gli altri lo aspettavano all'albergo dei Johnson per andare all'udienza con Lord Germain. Philip non ne aveva alcuna voglia. Il sogno occludeva i pensieri. «Questa foglia gialla l'ha dipinta nonno inverno. Questa foglia è bruna e l'ha dipinta nonno inverno. Questa foglia è rossa. No, no, no. E adesso era arrivato il momento. Quale momento? No. Questa foglia è gialla, l'ha dipinta nonno inverno. Il sangue, come la mamma. No, no, no. Forse doveva pregare. Di sicuro zia Nancy lo avrebbe detto, chiesto, ordinato. Ma da qualche tempo Esther aveva paura di Dio. Aveva paura anche di ammetterlo, pensarlo, sentirlo. Dio, paura. Il sangue in mezzo alle gambe. Voleva toccarsi, paura. Doveva morire, come la mamma? No, non stava morendo. Freddo liquido colava tra le gambe. Non voleva pregare. La canzone dei colori della mamma. Questa foglia è gialla e l'ha dipinta nonno inverno. Questa foglia è rossa. La filastrocca diceva il signor inverno, ma Esther piaceva a nonno. E nel tempo la mamma la cantava così. Nonno inverno era Sir William, anche se lo sapeva che non era vero. Ma era lui. Nonno. Mamma. Dove siete? Chi verrà a prendermi? Non stava morendo. Quando si era svegliata, accorgendosi di quel disastro, lo aveva pensato, ma ora non più. Certe cose si sentono, certe cose lei le sentiva, come vedere i fantasmi o le cose brutte in arrivo. Nonno William, per esempio, lei lo vedeva ogni tanto. Era proprio lui, ma non ne aveva parlato con nessuno. Le sorrideva con un sorriso buono. Una volta aveva fatto un gesto con la mano, poi le aveva detto di andare via. La mamma invece no, non ancora. Ma ci sperava, sarebbe arrivata anche lei. L'importante era rimanere zitta, non parlarne a chi che sia. Anche di quella cosa di Dio, se no avrebbero capito che era cattiva. Qualcuno sarebbe venuto a prenderla? Zia Nancy? Suo padre? Dio? Il diavolo? Freddo e stanchezza indurivano le membra, ormai era giorno. C'era una luce gialla, sporca di fumo, che entrava dalle finestrelle del capanno dove si era rifugiata. Era sporca, aveva i piedi intirizziti e infangati. La coperta sopra la camicia da notte non scaldava abbastanza. In ogni caso non sarebbe uscita. Dovevano aiutarla, ma non avrebbe chiesto aiuto a nessuno. Non stava morendo. Era confusa, sporca. Chiuse gli occhi, strinse le spalle scosse dai brividi. Vide la casa dove era nata, di là dal mare. Il grande fiume, la valle, i boschi. Poi una sagoma di donna, il volto nell'ombra. La salutava prima della sua partenza. C'era anche Peter. Era sulla soglia di Johnson Hall, vestito da generale. Le faceva cenno di entrare. Diceva: «Prendi il tuo posto!» La visione scomparve. Sarebbe tornata alla vecchia casa? Quando? Qual era il suo posto? Dalla morte di nonno William, il mondo si era messo a tremare sempre di più. Il verde dei prati della Mohawk Valley diventava rosso sangue. Perché? Di nuovo brividi lungo la schiena. Esther decise che avrebbe dovuto saperne di più sul sangue, per provare a vincere il terrore, per non avere paura di toccarsi tra le gambe, per non sentirsi sporca, per trovare il suo posto, per tornare a casa, ai prati verdi. Sempre che qualcuno arrivasse a prenderla, perché, certo, non avrebbe chiesto aiuto e tantomeno sarebbe uscita da sola. Colse l'agitazione appena varcata la soglia. Al centro della grande sala la figura magra di Nancy Claus gridava ordini alle domestiche. Nelle pause portava una mano alla bocca e la mordeva, mentre con l'altra premeva lo stomaco. Quando lo vide andò verso di lui, ma si immobilizzò subito. Rimase a distanza. «Signor Lacroix, vi hanno aspettato tanto, si chiedevano... Mio Dio, non c'è tempo, non posso spiegarvi!» L'indiano si avvicinò, puzzolente di stalla e sudato. «Cosa è successo?» «Sono dovuti andare tutti da Lord Germain, vi hanno aspettato tanto!» Si morse di nuovo il dorso della mano. Gridò a una serva di cercare ancora, di rivoltare l'albergo. «Cosa è successo?» ripete Philip. Nancy trasalì, come se in un attimo avesse dimenticato la presenza dell'indiano. Philip notò che era ancora in camicia da notte, coperta solo da uno scialle di lana. I riccioli le spuntavano scomposti da sotto la cuffia. «Esther!» disse. «Scomparsa!» Trattenne un singhiozzo. «Guy non voleva andare via, è stato Daniel a costringerlo. Siamo venuti a Londra per quest'udienza. Non potevano!» Questa volta il morso lasciò un segno sulla mano. Philip si fece indicare la stanza delle figlie di Guy Johnson. Risalì le scale in fretta e raggiunse il letto insanguinato. Annusò. L'odore di Londra gli aveva intorpidito l'olfatto, ma poteva ancora riconoscere il sangue di Luna. Un taglio che non si rimargina. Tornò di sotto e rimase fermo sull'ultimo gradino. Cosa fa un animale ferito? Si rintana, si nasconde. Guardò attorno. Nancy gli stava dicendo qualcosa, non le prestò attenzione. L'uscita più vicina non era quella principale, ma una piccola porta di servizio. Una volta aperta rivelò un cortile, polli e oche starnazzanti. Nel fango impronte di piccoli piedi portavano un casotto basso, in fondo allo spiazzo. Di certo la legnaia. Philip entrò, cauto. Il soffitto costringeva a chinarsi. L'odore di segatura accorciava il respiro. Appena oltre la soglia, prima che gli occhi si abituassero al buio, sentì la sua voce. «Stai lontano!» Philip si accovacciò in silenzio. I veleni dell'aria cattiva lo assalirono ancora. Tossì, provò nausea e fastidio. «Polvere sei e polvere ritornerai». Chiuse gli occhi e riportò la calma dentro di sé. «Hai bisogno di aiuto?» domandò alla penombra. Ancora silenzio. «Sono sporca!» Il gran diavolo parlò con voce tranquilla. «Anch'io. Questa città è sporca». «Come hai fatto a sapere che ero qui?» chiese la voce in tono sospettoso. «Ho fatto un sogno», replicò l'indiano. «Nella tomba di mia figlia c'era una ciocca di capelli, biondi come i tuoi. Lei oggi avrebbe la tua età». «È morta appena nata?» chiese Esther, lasciandosi intravedere dietro un intrico di rami secchi. Philip si appoggiò a una catasta di ceppi. «Era molto piccola. Anche mia madre è morta, e mio fratello. C'era sangue dappertutto, tutto il sangue del mondo». L'indiano incrociò il suo sguardo in uno spiraglio tra i legni. «Anch'io ho perso molto sangue. Morirò?» chiese Esther, sfregando i piedi arrossati dal gelo e lerci di terra umida. «Un giorno, come tutti», rispose l'indiano, mentre si alzava con un movimento lento. «Ma non oggi. Vado a dire a tua zia che venga a prenderti». Appena si voltò, i rami secchi scricchiolarono. «Perché ti chiamano il grande diavolo?» Philip si girò. «Perché in guerra gli uomini amano farsi paura. Poi la guerra finisce e la paura rimane. Fece per voltarsi di nuovo, ma lei parlò ancora. Sembrava non volesse farlo uscire, come se temesse che una volta fuori di lì la sincerità sarebbe svanita. Anch'io sogno le persone morte. A volte sogno nonno William. Philip annuì, senza dire nulla. La ragazza aveva il dono, era vicina agli spettri. L'aveva percepito la prima volta scrutando gli uomini formica dal pennone dell'Adamant. Adesso era lì, davanti a lui, e lo fissava, come in attesa di risolvere un enigma. Lo fece senza pensare. Sfilò il bracciale di Wampum e glielo porse. «Ti proteggerà, dai vivi e dai morti». Lei lo raccolse e lo strinse nel pugno, poi lasciò scivolare la mano candida in quella ruvida del cacciatore. Una sensazione antica riaffiorò con un brivido. Philip condusse la bambina fuori dalla legnaia. Sfarfallio di impressioni e timori riempiva la testa di Guy Johnson, intento a tornare all'albergo. Guy Johnson, americano, colonnello, commissario, suddito di, successore di, genero di, padre. Un valletto gli aveva consegnato un messaggio all'uscita dell'udienza. Guy e Daniel ancora sulla soglia, penosi rimasugli dei sorrisi d'etichetta a impiastricciare i volti. Formali e maldestri, sussiegosi per celare la paura. Non avevano il saper fare di Joseph, uno stile sicuro e trasognato, sonnambulo di potere e sfarzo. A Londra, l'indiano di Canaio Arie, era rinato animale da cerimonia, esotico campione di mostra canina. Nessuna nuova vita, invece, per il tedesco e l'irlandese. Solo la politica, un compito da svolgere con un peso a schiacciare il petto, un risultato da afferrare e portare a casa. Casa investita da una tromba d'aria, aria che vorticava e schizzava sangue intorno. Bandoca. Il biglietto era scritto da Nancy. Avevano trovato Esther. Philippe Lacroix l'aveva trovata. Per la seconda volta doveva ringraziare il grande diavolo. Stava bene, ma non era più una bambina. Doveva ricordarselo. Il sangue cambia tutto. C'è un prima e c'è un dopo. La lama di ghiaccio che aveva tagliato in due il cervello si era sciolta e il viaggio di ritorno era meno penoso. Riusciva addirittura a parlare, a commentare l'udienza, benché una parte di attenzione continuasse a fuggire, altrove, lontano e indietro, di là dal mare. Ogni tanto serrava le labbra tra i denti. Il futuro era denso di fumi, decisioni da prendere, richieste e aspettative. In compagnia di chi lo avrebbe affrontato? Che prova di sé avrebbe dato e di fronte a quale pubblico? Sapeva di avere una parte e non si sentiva attore. Spaventata dal suo stesso sangue, Esther si era nascosta nella legnaia. Non era più una bambina e a maggior ragione Guy doveva punirla. Doveva punirla, mostrare di avere polso in questa circostanza e in altre. Aveva causato disordine e preoccupazione. Aveva violato una regola di obbedienza. Era scappata e doveva punirla. Avrebbe dovuto, per dare un esempio alle più piccole, per dare un esempio a tutti. Era quanto ci si attendeva da lui, punire chi scappa spaventato dal proprio sangue. Ne andava della sua autorità. Sapeva di avere una parte, ma non si sentiva attore. Prevaleva il sollievo di saperla sana e salva. Entrò nella stanza. Lei sedeva sul letto. Alzò il mento con quella che a lui parve corrucciata indifferenza. Si avvicinò con le spalle curve, come pronto a cingerla con le braccia. Lei non si mosse. La chiamò. Lei scosse il capo, come per negare il proprio nome. Il padre alzò la voce. Lei non rispose. Lui si chinò per guardarla occhi negli occhi. Le sollevò il mento con la mano. Di nuovo la chiamò per nome. Vergogna, stanchezza, sfida, rancore, paura, amore filiale, distanza. Cosa c'era nell'occhiata di sua figlia? Guy la strinse forte. Lei mosse appena le braccia, appoggiò le mani sui fianchi di suo padre, abbraccio riluttante sospeso a mezz'aria. Restarono così, senza dirsi nulla, nella stanza di un albergo della città più grande del mondo.